Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Arancia Meccanica. Beh, oggi l'argomento è molto interessante, perché oggi noi parliamo di libero arbitrio, un argomento difficile da affrontare. Nel corso dei secoli ha causato opinioni contrastanti, dibattiti religiosi, culturali, sociali, filosofici, legali. Non c'è una posizione giusta e una posizione sbagliata. Quanto noi siamo padroni del nostro destino, e a questo è legata l'idea stessa di libertà. Insomma, ognuno di noi ha il potere di scegliere le proprie azioni, i propri pensieri attraverso la propria volontà, evitando le forze esterne. Ma quali sono le forze esterne e quanto queste forze esterne diventano interne? Naturalmente questo si contrappone appunto al concetto di destino, cioè ognuno di noi potrebbe avere un percorso già segnato prima ancora della nascita. Forse il libero arbitrio, anzi senza forse, insomma, va anche contro l'idea religiosa, quella di una divinità onnisciente che sa tutto, che può tutto, che sceglie per noi al posto nostro. Ma siamo convinti che Dio scelga al posto nostro? Perché allora ci fa così cattivi e così buoni alternativamente? E qual è la responsabilità? Perché poi la responsabilità è qualcosa della quale noi dobbiamo rispondere anche legalmente. Insomma, avete capito, non voglio far troppa confusione, però è difficile avere un'opinione definitiva sul concetto di libero arbitrio. Ma noi oggi ci addentriamo in questo tema perché il nostro protagonista è un ragazzo che ha una vita complicata, terribile, discutibile, scellerata, ma tutto questo ci consente una riflessione profonda sul concetto di libertà, di libera scelta tra il bene e il male. Noi oggi raccontiamo la vicenda di Alex Delarge, Alexino, uno studente londinese, un folle, un deviato, uno che apparentemente è normale, sta in famiglia, va a scuola, poi in realtà ha una doppia vita notturna, terrificante, è la personificazione dell'espressione cockney, che in dialetto londinese è strano come un'arancia meccanica, cioè normale in superficie, ma anomalo, bacato, bizzarro, deviato al suo interno. Eccomi là, cioè Alex e i miei tre druidi, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza. Beh, l'avete sentito già dalla presentazione, insomma si capiscono tante cose di Alex, intanto che lui ha un gergo molto particolare, che prende in prestito, non so, parole russe, gli amici li chiama drughi, perché in russo drog vuol dire amico, però c'è anche drag attorno, no? La testa la chiama Gulliver, insomma ne scopriremo di parole particolari che lui usa comunemente. Alex e i suoi drughi passano le serate lì al Corova Milk Bar. Corova vuol dire mucca, e in realtà si serve solo latte, ma è un latte molto particolare, il latte più arricchito da drogucce varie, come dice lui, il Sintemesk, l'Adrenacom, il Velocet. Dopo che avevi bevuto il vecchio latte più, te ne stavi lì e avevi il ronzo che tutto quello che c'era intorno fosse un po' come nel passato. Vedevi tutto benissimo e chiaramente. I tavoli, lo stereo, le luci, le ragazze e i malcicchi, i ragazzi. Ma era tipo una cosa che c'era stata e ora non c'era più. Eri come ipnotizzato dal tuo stivale o dalla tua scarpa, e allo stesso tempo era come se ti prendessero per la vecchia collottola e ti scuotessero, come fossi un gatto. Ti scrollavano e ti scrollavano finché non ci rimaneva più nulla. Perdevi il tuo nome, il tuo corpo e la tua personalità, e non te ne importava un bel niente. E aspettavi finché il tuo stivale o la tua scarpa non diventavano sempre più gialli. poi le luci incominciavano a scoppiare come atomiche e tu stavi per essere presentato al vecchio Dio in persona. Quando tutto finiva, tornavi indietro nel qui e ora con un po' di piagnisteo. Alex e i suoi amici Pete, George e Dean passano le loro serate lì al Corova Milk Bar, locale decisamente particolare, con dei tavolini con delle statue bianche di donne nude sdraiate, altre statue di donne nude in piedi. Il latte viene servito dalle mammelle, questo latte drogato, insomma un ambiente che influisce su una mente già deviata come quella di questi ragazzi, li predispone all'esercizio dell'amata ultraviolenza. E lui in casa sembrerebbe un ragazzo tranquillo, va a scuola, famiglia operaia, e in realtà non è così, perché sotto quella scorza di ragazzo normale, scorza tanto per rimanere insomma nella metafora dell'arancia, dietro c'è una personalità deviata, non aspetta altro che incontrarsi con il resto del suo branco, bere il suo bicchiere di latte più e poi andare su di giri e iniziare scorribande notturne. E non gli importa di niente, non ha interessi Alex, non ha una ragazza, non gli piace lo sport, non legge, non va al cinema, non interagisce con i genitori, i genitori che di lui non sanno nulla. Lui ha una sola grande passione, la musica classica, ma soprattutto Beethoven, lui lo adora, lo chiama confidenzialmente il vecchio Ludovico Van, insomma Beethoven lo eccita, lo esalta, soprattutto è ossessionato dalla Nona Sinfonia. C'era qualche sofista della TV che ha gli studi lì vicino, a ridere e gavottare fra loro. La Dvochka sorrideva del tutto incurante dei grandi guai del mondo. E poi il disco nello stereo smiagolò nel nulla. E nel breve silenzio prima del disco seguente, eccola lanciarsi in un'esibizione di bel canto. E per un momento, oh fratelli, un usignolo era entrato nel milk bar e tutti i più malenchi peli del mio intero plotto si drizzarono dall'emozione e brividi su e giù come malenche lucertoline, su e giù, perché l'aria, io la sapevo, era un pezzo della gran nona del Ludovico Van. Insomma, due componenti, il latte più e Beethoven, il cocktail terribile che gli dà la forza, lo mette nello spirito giusto per dare sfogo alle sue perversioni, la sua ultraviolenza, furti, rapine, aggressioni senza motivo, è la noia che lo spinge, irruzioni nelle case private che finiscono tutte con pestaggi, con stupri. La serata tipo di questi drughi parte lì, dal Corova i ragazzi assumono le sostanze e poi partono e vanno all'attacco appena fuori dal bar. Già se incontrano qualcuno, questo qualcuno è uno sfortunato perché può essere la loro prima vittima, e magari un barbone ubriaco che canta le stelle, che viene pestato a sangue e viene lasciato agonizzante a terra. Succede. Poi magari rubano un'auto sportiva, la lanciano a tutta velocità per le strade, seminano caos, poi la distruggono, oppure fanno a pugni con una banda rivale, tipo quella di Billy Boyson, dei ragazzi vestiti da nazisti che si contrappongono ai drughi, anche perché Alex e i suoi sono diversi, intanto sono interamente vestiti di bianco, il colore del latte, hanno queste tute bianche con questi scarponi militari, insomma fanno un bel effetto per strade. Poi hanno delle bombette nere in testa, dei bastoni in mano, sono truccati in un occhio solo. Però Alex è il capo, è il più stravagante dei quattro, ha anche delle enormi ciglia finte, insomma tutto questo gli conferisce uno sguardo inquietante ma anche magnetico, insomma chi li incontra sul cammino non può non notarli e prova subito il desiderio di scappare il più lontano possibile. È il pezzo forte della notte brava dei drughi e quello in cui Alex riesce a dare il meglio di sé è la cosiddetta visita sorpresa, incursioni violente in case private isolate con i ragazzi che entrano con uno stratagemma, si fanno aprire magari raccontando che uno di loro sta male e poi inizia la festa, ed è una festa terribile, una delle visite a sorpresa più violente, quella ai danni di uno scrittore, si chiama Frank Alexander e vive in questa villa isolata con sua moglie, lo aspetta una notte veramente tragica. Ciò che ora si aveva in mente era la vecchia visita a sorpresa. Quella era sempre una cannonata per farsi delle gran risate e vagoni di ultraviolenza. Si arrivò in una specie di villaggio e proprio fuori di questo villaggio c'era un piccolo cottage isolato con un giardinetto intorno. La luna era su bene e questo cottage si vedeva chiarissimo. Così rallentai e misi il freno. Gli altri tre ghignavano come matti e si poteva vedere perfino il nome sul cancello che era Casa Mia, che come nome era proprio Miele Strazio. E Alex usa la solita scusa dell'incidente, racconta che c'è un amico ferito, chiede di poter fare una telefonata e gentilissimo si fa aprire dalla moglie dello scrittore che abbocca e poi una volta dentro il gioco è fatto. E i quattro drughi si impossessano della casa, mettono subito fuori combattimento lo scrittore, Alexander, gli danno dei calci nel ventre, poi distruggono le librerie, saccheggiano la cucina con la moglie dello scrittore che si è rattrappita contro una parete in preda al terrore. L'attenzione di Alex non si rivolge alla donna, non subito almeno, perché prima è colpito dalla scrivania del padrone di casa. C'è una macchina da scrivere, a fianco c'è una pila di fogli dattiloscritti. Gli dissi: lei sta scrivendo un libro. Ho sempre avuto la più grande ammirazione per chi riesce a scrivere libri. Poi guardai il primo foglio e sopra c'era il titolo: Arancia Meccanica. E io dissi: un titolo ben stronzo. Chi ha mai sentito parlare di arance meccaniche? Poi ne lessi un pezzettino con una voce alta da predicatore. Il tentativo di imporre all'uomo una creatura capace di sviluppo e di dolcezza, capace alla fine di attingere il succo dalle barbute labbra di Dio, di cercare di imporre, dico, leggi e condizioni appropriate a una creazione meccanica, è contro questo che io alzo la mia penna spada. Non potei fare a meno di ridere. Allora cominciai a strappare i fogli e a spargere i pezzetti per terra, mentre lui gridava che quello era tutto il lavoro di una vita e io lo stavo distruggendo. La violenza cresce, si autoalimenta, lo scrittore che viene malmenato è ridotto all'impotenza, i ragazzi sono in preda a un delirio bestiale, passano alla moglie che viene violentata a turno da tutti e quattro. Poi sono presi da una frenesia chimica impossibile da placare, distruggono tutto quello che riescono e se ne vanno, lasciando lo scrittore e la moglie laceri, sanguinati, traumatizzati per sempre, ma ancora vivi. Tornano in città, vanno al Corova Milk Bar, ma sono su di giri, litigano tra di loro, insomma alla fine decidono di tornarsene ciascuno a casa propria, il lettuccio che ama, dice uno di loro. E Alex torna a casa, lui abita con i genitori negli alloggi del Municipal Flat Block, siamo tra la Kingsley Avenue e la Wilson Way, c'è la sua tana, c'è la sua camera da letto, lo stereo, l'armadio con i dischi di musica classica, c'è il serpente. Io a 17 anni mi ero comprato il serpente per metterlo nel cassetto come Alex, che insomma un po' improvvidamente era uno dei miei punti di riferimento, anche se poi in realtà per mia fortuna insomma il latte più non era stato inventato a Milano. E poi nella casa di Alex ci sono le bandiere che testimoniano i suoi soggiorni nei carceri minorili, perché lui aveva iniziato ad andare nei carceri minorili quando aveva solo 11 anni. E il mattino dopo, quella notte terribile, a casa dello scrittore, Alex si sveglia intorpidito, non ce la fa andare a scuola, cosa che gli capita anche abbastanza spesso. Il padre sta uscendo per andare alla fabbrica di tinture dove lavora, anche la madre deve uscire per andare al lavoro suo, che è in un supermercato, insomma lo salutano: povero figlio, sei stanco, non stai bene. Alex si sta già pregustando una bella mattina di ozio quando si apre la porta di casa, compare il signor Deltoide, l'ispettore giudiziario minorile. Ciao, signor Deltoide. Strana sorpresa trovarla qui. Allora, Alex, bello, finalmente sveglio, sì? Imbattuta in tua madre che andava al lavoro, sì? Datami la chiave. Dettami che avevi male da qualche parte e quindi niente scuola, sì? Atroce dolore terribile alla testa, compagno Sir. Penso sarà svanito nel pomeriggio. Certo, prima di stasera, sì. La sera è l'ora ideale, vero, Alex, bello? Qualcosa che non va, sir. Cosa? Perché devi pensare che c'è qualcosa che non va? Commesso qualche peccatuccio, sì? Solo un modo di esprimersi, sir. Sì, ma è anche un modo di esprimersi del tuo ispettore giudiziario minorile che dice di stare molto attento. Perché la prossima volta non sarà più il correzionale Alex Bello e il sole a scacchi. La prossima volta è tutto il mio lavoro che va in fumo. Se non hai un immeritato rispetto per te stesso, almeno abbilo per me, che ho faticato tanto per te. È una brutta macchia per noi, ogni delinquente che non riusciamo a redimere, l'ammissione di un fiasco per ogni tizio come te cui fanno indossare il completo a striscioni. Ma io non ho fatto nulla di riprovevole. Lui si sente furbo, Alex, si sente abile. Naturalmente il signor Deltoid non gli crede. Ha capito che prima o poi il suo sorvegliato speciale incapperà in qualcosa di grosso. Ha capito che stanno per arrivare i guai veri. Non si immagina che di lì a poche ore Alex sarà coinvolto in un evento veramente grave, un evento che cambierà per sempre la sua vita. Chuck si vola. Arancia meccanica. E il nostro terribile deviato protagonista di oggi è Alex Delarge, studente londinese, eccentrico, incredibilmente violento, capo di una banda di amici, di criminali, di drughi, che passano il tempo bevendo latte con l'aggiunta di varie droghe, che poi si dedicano al loro sport preferito che è l'ultraviolenza. Alex, appassionato di musica, predilige Beethoven, che lo eccita in qualche modo. Lui è a capo dei droghi, sono quattro ragazzi generalmente, agli altri non va molto giù questa supremazia, dicono che i soldi e gli oggetti rubati nelle rapine o nelle case delle vittime finiscono sempre quasi per intero nelle tasche di Alex. Insomma, Alex è un capo ingombrante, a volte si ribellano e Alex sa sempre come rimettere le cose a posto, sa come riconquistare la sua leadership anche con la violenza. Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare. Sta per arrivare l'evento fatidico, quello che in qualche modo purtroppo confermerà le paure della polizia del signor Deltoid, che è l'ispettore giudiziario minorile al quale Alex era stato affidato. Bene, quella sera è il momento di una delle loro visite a sorpresa, cioè introdursi con l'inganno in una casa isolata per poi compiere ogni tipo di nefandezza. E la sfortunata prescelta in questione è un'anziana signora, ama l'arte, ama i gatti, è proprietaria di una clinica per dimagrire, si chiama La Residenza, si trova nella città vecchia, appena passato il Victoria Flat Block. Chi è lei? Come diavolo è entrato? Che porco accidente ha intenzione di fare lei? Stammi a sentire, tu lurido bastardo, fai dietro fronte e vattene subito così come sei venuto. Insomma, che porco cavolo vuoi? Beh, a dir l'onesta verità, madame, io prendo parte a un concorso internazionale studentesco per chi riesce a smerciare più copie dell'enciclopedia a puntate. Tutte balle, giovanotto. E levati dai piedi prima che ti succeda qualche grosso guaio. E forse non era sua intenzione, però Alex ha la mano un po' troppo pesante con la signora, la vuole rendere inoffensiva. In realtà la uccide. A questo punto gli eventi si accavallano fino a stravolgere per sempre l'esistenza del nostro protagonista. Succede che dopo questo omicidio, diciamo non preventivato, George, Peter e Dim, cioè gli altri tre drughi, stanno organizzando la loro ribellione, vogliono tradire Alex, stanno cercando il momento giusto per incastrarlo, e questo è il momento giusto. Quando Alex apre la porta della residenza, incita gli amici a fuggire, loro gli spaccano in faccia una bottiglia, lo lasciano steso lì, il latte più questa volta non gli ha fatto bene, è ferito, è momento momentaneamente cieco, arrivano e si sentono già le sirene della polizia. Insomma, Alex viene arrestato, quasi non ci rimane male, anche se non si dovrebbe, insomma, lui è un assassino. Ascoltate però l'opinione che ha di Alex un grande regista che ha trattato spesso la violenza, Stanley Kubrick. Alex, Alex non è ovviamente una figura positiva, ma c'è una strana identificazione psicologica con lui. È lo strano dualismo di una persona che fa il male, ma opera a un livello inconscio e ti rende consapevole di cose della tua stessa personalità che non conoscevi, e alla fine ti identifichi con lui. Poi sicuramente i cattivi sono più interessanti dei buoni. È decisamente più divertente avere a che fare con il male che non con la bontà. Non è interessante dire alla gente, visto com'è magnifica? Comportati così. E beh, se pensiamo al cinema, ma anche alla letteratura, alla storia, insomma, i personaggi cattivi a volte sono veramente quelli più interessanti, quelli che fanno parlare, che fanno discutere. E Alex è così, è un delinquente, è un violento, è uno che non vorremmo mai incontrare, non lo vorremmo come figlio, come fratello o come amico, però in qualche maniera non riusciamo a non seguirlo, insomma, con un minimo di trasporto. Non dico che parteggiamo per lui, però c'è qualcosa che ci attira, soprattutto adesso, perché adesso lui è nelle mani della polizia e i poliziotti non sono teneri con lui, non è tenero neanche il giudice, che non tiene conto di nessuna attenuante vista la giovane età del ragazzo. Però c'è veramente la serialità dei suoi crimini. Insomma, Alex viene condannato a 14 anni di carcere duro, vita di prigione dove lui subisce ogni sorta di angheria, diventa preda perché i predatori, insomma, è in mezzo agli omaccioni, a uomini violenti, perversi, molto più di lui. Dopo 2 anni di questa vita tremenda, il nostro protagonista sente parlare di qualcosa che potrebbe rappresentare la sua salvezza. Viene a conoscenza di una iniziativa del nuovo governo in carica che promette la scarcerazione immediata a chi accetti di sottoporsi a un innovativo programma di rieducazione. Lo chiamano trattamento Ludovico. E viene attirato naturalmente dalla promessa della libertà, si fa notare dal ministro degli interni in visita al carcere, si propone per il trattamento, firma senza leggerle tutte le condizioni per avere questo tipo di bonus, questa speranza. In realtà non si sa ancora in cosa consista questa cura innovativa. Lo vengono a prelevare per trasferirlo nel centro medico. Lui è al 7° cielo, lì inizierà il trattamento. È talmente contento che non si domanda cosa lo stia aspettando. La sorpresa, insomma, non sarà delle migliori. Chuck si vola. Arancia meccanica. Il programma di rieducazione Ludovico, quello promosso dal nuovo governo come risposta alla violenza dilagante, quello che diventa la bandiera politica dell'efficienza del nuovo governo, è un trattamento nel quale il paziente, che ovviamente è un delinquente irrecuperabile, viene costretto a guardare per giorni e giorni film, scene di violenza, di stupri, di guerra, tutto con un divaricatore agli occhi che gli impedisce di chiuderli, e intanto gli viene iniettato un farmaco che gli provoca una nausea insopportabile. Insomma, lo scopo del programma è quello di indurre un riflesso condizionato che quindi impedisca al paziente di commettere atti violenti. E il nostro protagonista Alex ha firmato questo consenso al trattamento senza sapere che doveva affrontare giorni e giorni di questa cura tremenda. Dove mi hanno portato, compagni, non era affatto un cine, mai visto niente di simile. Mi hanno messo una camicia di forza e la mia Gulliver era legata a un poggiatesta con tanti fili elettrici che ne uscivano. Poi mi hanno piazzato dei fissapalpebre in modo che non potessi chiudere gli occhi in nessun modo. Mi sembrava un po' strano, ma io li ho lasciati fare tutto quello che volevano fare. Se mi davano la libertà entro 2 settimane, ero disposto a lasciarli fare tutto quello che volevano, cari fratelli. Il primo film era ottimo, competente, un vero cine come li fanno a Hollywood. Il sonoro era proprio Carasciugno. Ti slusciavi tutti gli urli e i gemiti, molto realistico, tanto che sentivi perfino il respiro pesante e l'ansimare dei talciocchi malcicchi. È buffo come i colori del vero mondo diventano veramente veri soltanto quando uno li vede sullo schermo. Ora, mentre io guardavo tutto questo, cominciavo ad avere l'impressione di non sentirmi affatto benissimo, ma lo attribuivo al mangiare abbondante e alle vitamine, e cercavo di non pensarci. Insomma, Alex viene imbottito di farmaci che gli inducono nausea, chimica, 15 giorni di trattamenti e alla fine, secondo i medici, lui è guarito. Cioè ogni volta che pensa a una scena di violenza, il riflesso condizionato gli scatena un tale dolore allo stomaco che non sarebbe più capace di fare del male neanche a una mosca. Però c'è un però, perché se è incapace di commettere violenza, adesso è anche totalmente incapace di difendersi. Insomma, una volta scarcerato diventa a sua volta lui preda della società violenta, perché quelli ai quali aveva fatto del male lo riconoscono, si vendicano senza che lui possa reagire. Anche chi lo aggredisce casualmente può fare di lui tutto quello che vuole. Insomma, Alex è disperato perché li ha incontrati tutti, il barbone, gli ex compagni, e tutti gliela stanno facendo pagare. Lui non è in grado di reagire, arriva a pensare a tentare il suicidio gettandosi da una finestra. Il tentativo di Alex di togliersi la vita fallisce, lui rimane in coma per molto tempo, poi si risveglia e ricordiamoci che era diventato famosissimo grazie al trattamento Ludovico. Il governo aveva capitalizzato questo intervento su Alex, l'aveva sbandierato come il grande successo, e adesso tutti i media sono puntati su di lui. È diventato un caso politico, vogliono capire perché ha cercato la morte. Insomma, si trova al centro di un dibattito etico, quello di cui parlavamo all'inizio della puntata, un dibattito sul libero arbitrio, ma soprattutto è al centro di un caso. Il trattamento ha annullato la sua capacità di scelta, lui non può più decidere liberamente di agire per il bene, è costretto al bene dal dolore e dalla sofferenza. Ascoltate per esempio l'opinione sul libero arbitrio e sul concetto di violenza del grande scrittore Anthony Burgess. C'était important à choisir. È importante scegliere. Noi abbiamo il diritto di scegliere. Se vogliamo scegliere il male, questo è molto umano. Ma se invece è lo Stato che impone la scelta, che impone di scegliere il bene, allora questo diventa il vero male. È peggio del desiderio di fare il male con il libero arbitrio. Jean-Paul Sartre ha fatto una distinzione fra barbarie e violenza. La violenza è indispensabile per cambiare le cose, sia nella politica che nell'arte. Ma la barbarie, la violenza senza un fine, senza una ragione, gratuita e indesiderabile. E al suo risveglio dal coma, Alex ha una sorpresa gradita per lui, perché si accorge che probabilmente a causa del blackout cerebrale, dei farmaci che gli sono stati somministrati, lui non sente più la nausea quando pensa alla violenza. Diciamo che è guarito dalla cura. Arriva il ministro degli interni, che naturalmente è preoccupato per lo scandalo, se lo deve tenere buono, lo va a trovare in ospedale, cerca un compromesso con lui. Alex non ha dubbi su come deve comportarsi. Non è un segreto che il governo ha perduto molta popolarità per causa tua, figliolo. C'è chi dice che alle prossime elezioni saremo battuti. La stampa ci ha criticato molto severamente per quel che abbiamo cercato di fare. Ma l'opinione pubblica cambia facilmente. E tu, Alex, puoi contribuire molto a cambiare l'opinione pubblica. Capisci, Alex? Mi sono spiegato chiaro? Come un lago senza fango, Fred. Così limpido come un cielo d'estate sempre blu. Fidati di me, Fred. Bravo, sei un amico. E in cambio del suo silenzio sui metodi del trattamento, il ministro degli interni promette a Alex che può avere tutto quello che vuole. E Alex gli fa la domanda chiave. Gli chiede di diventare capo della polizia, che è una posizione ideale, vista dalla sua ottica, una posizione ideale per esercitare la sua tanto amata ultraviolenza in maniera legale, cioè protetto dalla legge. E questa era la storia di Alex, che alla fine una decisione, anche se quantomeno provocatoria, alla fine l'ha presa e è diventato il capo della polizia, lui che è partito. Grazie anche a un uso scellerato del libero arbitrio, è partito dal crimine e poi è passato attraverso varie vicissitudini, insomma colpi d'ala pratici, colpi d'ala criminali e anche però colpi d'ala filosofici. Se volete mandare dei commenti e segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi, a trovarci sulle nostre pagine. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Cosa significa fare trading di cripto su Kraken? Immagina di essere in una palestra all'avanguardia. Ti limiteresti a fare panca a corpo libero? Potresti, ma la palestra ha trainer, esperti di fitness, coach. Ecco la sensazione che provi quando fai trading su Kraken. Potenti strumenti per le tue cripto, supportati da un'assistenza H24 e da una sicurezza multilivello. Vai su kraken.com e scopri il potere delle cripto. Non è un consiglio di investimento. Il trading di cripto comporta il rischio di perdita.